e devi essere capace di chiederti: oh cavolo, ma è un sogno? Sai, quasi nessuno si fa queste domande, né da sveglio né tantomeno quando dorme. Sai a cosa mi sto dedicando? A cosa? Oh beh, un progetto ambizioso. Ma mi sto perfezionando. Oh, che sono completamente alienato, estraneo alla comunità degli uomini. Tra sei e sette essere, devo essere pazzo.